La sentenza penale e i suoi requisiti formali. Nel processo penale, la sentenza può definirsi come quel provvedimento che chiude una fase del processo, sia pronunciando definitivamente sulla norma sostanziale, sia su norme di carattere processuale, sia infine chiudendo la fase istruttoria e quindi rinviando a giudizio o prosciogliendo l'imputato. Sentenza istruttoria. Ai provvedimenti di carattere interlocutorio è invece riservato il nome di ordinanze. La sentenza, redatta per iscritto, deve contenere le generalità dell'imputato o le altre indicazioni che valgano a identificarlo. Le generalità della parte civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile, articolo 384, numero 1, 474, numero 2, codice di procedura penale. L'enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di sicurezza. L'esposizione dei motivi in fatto e in diritto, il dispositivo, questi due ultimi a pena di nullità, anche se soltanto incompleti. Inoltre, la data e la sottoscrizione dei giudici che l'hanno pronunciata e del cancelliere. Le sentenze delle corti d'assise sono però sottoscritte solo dal presidente e dal cancelliere. Articolo 20, Regio Decreto 23 marzo 1931, numero 249. La sentenza istruttoria deve contenere le richieste del pubblico ministero e le istanze proposte dalle parti. Per la sentenza definitiva è prescritta anche l'indicazione degli articoli di legge applicati e l'intestazione in nome del sovrano. L'una e l'altra possono contenere anche provvedimenti accessori relativi alla libertà dell'imputato, articoli 375, 381 e 479, capoverso 4, codice di procedura penale, alla condanna nelle spese del querelante, articolo 382, codice di procedura penale. La sentenza definitiva è deliberata dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento senza interruzione e il dispositivo è letto immediatamente alla pubblica udienza. Questa lettura sostituisce la notificazione per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti al dibattimento anche se non presenti alla lettura. La deliberazione della sentenza è sempre segreta. Il Presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti l'imputazione e quindi, se occorre, quelle sull'applicazione delle misure di sicurezza. Tutti i giudici danno il loro voto su ciascuna questione, qualunque sia stato quello sulle altre. Il primo a votare è il giudice meno anziano. Nelle corti d'assise votano prima gli assessori, cominciando dal meno anziano d'età. La sentenza è deliberata a maggioranza. Qualora si manifestino più di due opinioni, si procede come per la votazione per esclusione nel processo civile, articoli 472 e 473 del codice di procedura penale. Se su di una questione vi è parità di voti, possibile nella Corte d'Appello, che in sede penale è costituita da quattro votanti, prevale l'opinione più favorevole all'imputato.